15. QCQDX to channel 10. Attenzione alla Francia chiave. Avanti Francia. Hello my friends. If you listen to me, please confirm QSO my friends. Non ti copio più, la propagazione sta andando via. Attenzione all'amico se mi ascolti. Avanti. Cappa, guarda un attimino, sento pio pio, basso basso, come stai uscendo? Da lontano sono, capito? Giuspiro, ma c'è un ritardo sul... c'ho un rientro in RF e non riesco a capirti bene, a copiarti bene. Mi avanti con nominativo. Credo che sono lontano dal mio QTH. Cappa, da questa parte è Fausto, Guglielmo da questa parte. Guglielmo. C'era uno Guglielmo che modulava, ma parecchio tempo fa, Guglielmo Hotel. Ah, Guglielmo Hotel. Non so se lo conoscevi, ce n'era un altro che si chiamava Guglielmo Marconi. No, Guglielmo Hotel se io conoscevo. Ui, e allora Fabri Fibra. No, certo, sono lontano dal mio QTH. Cioè, la radio è qua e l'antenna è un po' più lontana da me. Un po' più lontana da te. Allora, Roger, perché hai alzato ancora la Elettricamente. Hai già messo quella cosa, quel martinetto a tirare su il coso? Lo stavo provando, adesso forse me lo ritirano e mi mandano quello più alto, quello particolare, ma tanto quello non piacerò. Quando faccio i lavori, capito? Quando faccio i lavori che monto... E se faccio le camere che su, le faccio installare direttamente con la terra, faccio fare una piccola piattaforma. Ma il telefono ti stava squillando? Il? Mi sembrava che ti stesse squillando il telefono. Capo di Roger, minchia, quindi ti è già arrivato, il bastardo che sì, già potevi chiamare a vederlo quantomeno, dai, ti davo anche una mano, non c'era problema. No, non la prova, se lo rimetto giù e poi piattiamo tutti insieme e quando monto tutto quanto in garage, cioè mi occupo mezzo garage. Minchia, quanti metri sono in breve? È tutto elevato. Ma fino a 16 ho potrei tirare su, me lo portano 7-8 metri su, tra 10 di più. Tu sei fuori di gabbo, sì, a fuori di gabbo, come si vuol dire. Ma quando ti è portato c'è tutto. Non importa, tanto lo monto a una cosa circa, finché non prendo quella roba lì, se prendo quella roba lì poi inizio a fare ordinare tutte le direttive e via. Cattolino, ma com'è, a tubi quadrati o rettangolari? Quadrati. Minchia, l'ho letto, è uno dei migliori, è quello lì. È uno dei migliori. Ti sei messo la mano in tasca, dai. Ah, vabbè, se... Aspetta. Se lo dovevi fare, hai fatto bene a fare quell'acquisto, perché quella che ti volevi prendere è un po' più bassa, obiettivamente per poco di più, almeno arrivi a quell'altezza lì, capito? Minchia, 16 metri sono importanti, se ti fidi hai giù mai quanto il palazzo. Lo so, ma poi è telescopio, quindi teoricamente posso lasciarlo tutto dentro e tiro su quello che mi serve, quindi teoricamente lo porto intorno ai 6 metri, quanto 5 metri 50 a riposo e poi lo tiro su, quindi teoricamente se lo potrei anche tirare su col vento, abbassarlo, ma devo vedere un po', devo chiamare ancora, tanto non è per il momento, e quando ho provato una parte, ne ho provato, quando sarà lo piacerò, se no rimane lì e lo do via anche io, tanto il prezzo era interessante, già non me l'hanno regalato, ma era interessante il prezzo. Se l'avevi preso al prezzo vecchio di quello che mi hai detto, era un investimento per rivenderlo, basta. Minchia però, ma ascolta, permessi dal comune non ce ne vogliono. No, c'è una legge, se lui sta amando, se guardi su internet stavo leggendo che qualcuno, il comune ha denunciato un radiatore perché aveva montato un traliccio particolare, invece c'è una sentenza della Cassazione che dice che non c'è bisogno di nessuna autorizzazione di cosa, non ci vuole la DIA, non ci vuole un cavolo, bisogna solo piazzarlo. La DIA? Ma figata, dai. Ma ascolta, come la tiranti nel caso, sui 4 watt? Quando metteranno, se faccio le due camerette su, quando trovo già le camerette, che dovranno fare il palco sotto, quindi dovranno vedere un po' sui muri importanti, lì gli faccio mettere due travettine, come ho costruito io, una cosa inghisata in terra dove poi puoi imbullonarla, capito? Quindi lo smonti, lo rimonti, però l'ho fatta la piattaforma come ci deve. Ma di che colore l'hai preso? Quello bianco che stai guardando è il colore alluminio? No, no, è leggerissimo, quello preso è tutto alluminio, Sì, no, ho capito, il colore, che cos'è? Colore alluminio o bianco? Colore alluminio. Ma è in testa quante ne puoi sistemare? Soprattutto a livello di peso cosa può tenere? Quello che vuoi. Al centro c'è su per mettere l'ottore, poi ci puoi mettere quello che vuoi. Crocro. Va. Ma sicura, però mica è meglio. Fai così. No, qua non sarà, lì va a fare, perché poi c'è una specie di affare elettrico, quello laterale per salire su, no? Una specie di, come cavolo si chiama, per portarti su, come che si chiama, però non lo so, io non dipende, ho fatto l'affare, dai, l'ho preso, poi per il video se ne prendo per una fammi, mi chiamo di rifarmi, aveva biliardo, tutto lì, e quindi l'ho dovuto prendere, poi vediamo un po' se passa una roba, lo piatterò, al momento stanno facendo quei lavori, comunque lo faccio fare la piastra, poi deciderò, ma adesso è lì, poi vediamo. Quello serve, può servire solamente se fai quel certo, quel tipo di attività, se no non te ne fai niente. Fatti Rogero. Cava, dai, non ho capito. A schiacciare questa cosa, boh. Adesso non te ne fai niente, però al momento che sarà molto dopo la volontà e non mi tocca più. C'hai ragione anche tu. E c'ho ragione, beh, ma non ti stai preparando? Allora sono sul divano, qui, cosa mi devo preparare a fare? Scopro. Io. Non girare gamberoni. Io lavoro qui. Faccio io gamberoni, e il freezer fa un po' di tiro fuori. Cava di Rogero. Brodino, buonasera, ciao Fabrizio. Ciao Leonci, perché ho ioioi? C'è freddo. Sì, tu non ti tocca a me? Freddo. E se dura questo freddo, con certo mi pare che stanotte Piazza d'Italia ne faranno poco e nulla. Ma non eri tu Leonci, io ero qui che guardavo il computer, il microfono in mano, non avevo riconosciuto. Avanti! E mai sentito? Non fare il furbo. No, sto scherzando io. Io con il cazzo, con i piedi lunghi sul divano, il microfono sulla pancia e guardando quei cosi su Virgilio Mobile, Virgilio, quei filmati particolari fanno vedere sui motori, che è una cosa impressionante, come si stanno schirignando queste macchine, quindi non ce lo smettere di fronte alla radio, ce l'ho dietro la testa. Tesla, hai visto che giornata di mio è questa qua? Io mi sono preparato e me ne sto andando, poi tu puoi avere anche la radio in bagno, quando senti la mia voce, come io faccio a te, la riconosco, quindi non fare il furbo. Cioè ieri non hanno riconosciuto Sandro Apporto Torres? Chi? Con tutta la greppa, a un certo punto ha dato l'importante, l'ho preso subito, 25 anni di frequenza, pam, l'ho capito subito, loro stavano brancolando nel buio. Crocro, Lonci, sei uscito, Lonci? No, non stavo cercando, ti ho riconosciuto dopo la seconda battuta, io non mi sono stordito, ho fatto una notte, sono sul divano, sono stordito, ho risposto perché ha chiamato il Grodigito per farmi due chiacchiere, sono buttato, sono stordito ancora, devo lavorare stanotte, non mi sono stordito, e tu me la devi fare qua? Io me la sto andando fra un po', non fra un po', sono 7:00, ce ne andiamo a Ghiero, e poi domani lavoro, quindi da lì vado a lavorare e poi rientro a Ghiero. Niente di particolare, giornata come tutte le altre, per me, quindi, non mi limitarisce più di tanto. Per quanto riguarda quello che stavi dicendo, stai attento molto bene con quell'affare del computer. se sarà bene, se no rimane lì e me lo rivendo. Dipende da cosa, se no non ti fa niente, già lo sai, no? No, non sono d'accordo con la piattaforma. Anche Marco aveva la piattaforma e si è fatto un fumo. Allora l'ha fatto entrare nel cemento armato. Capito? Questa cosa è la piattaforma, a parte lo stesso. Con la piattaforma ne è caduto tutto e ci ha rimesso 20.000 euro di antenne, quindi. No, io tradicio, cosa mi metto a fare tradicio? Io adesso mi lavoro, ho la direttiva da montare, 10, 15, 20 colpiti dei 40 metri della Iaggi, monto quella lì, ma sul tubo, direttamente sul tubo, e basta, io non ho bisogno di altro, perché intanto l'attività che faccio è basata solamente su quel tipo di frequenza, quindi non mi interessa più di tanto. Se c'è la possibilità, se non c'è la possibilità, anche io lascio tutto come in garage, anche non me la futti manco per l'anticamera. Ma è così, che dipende da uno a cosa fa, no? Voglio dire, secondo l'attività uno si piazza e qualsiasi cosa, secondo quello fa, infatti quello che trova deve piazza, perché pure avrei ancorato, non te faccio ancora altre AL appoggiato sulla parete che sarà una casa tra i 2 metri e mezzo, 3 metri almeno, la collega sulla parete e sull'altra, no, ancorata ma ancora non bene. Poi come dico io, infatti dico, deve piazzare, ma c'è che anche un piatto, io non me ne faccio niente, però giusto uno quando ha un patente non se lo può permettere di piazzarselo, se no cosa se ne fa? Ma alla fine anche se poi hai la patente, non hai la voglia di fare collegamenti, le direttive servono un bel poco, capito? Ben poco, vabbè, come dicevo io è una direttiva lo stesso, è una 4 elementi più quella delle VHF, cioè lo stesso, però no, se non hai gara e attività è inutile che stai lì a dire molto. Vabbè, comunque è meglio sempre avere tutto già pronto, poi basta solo un po' di buona volontà e si piazza tutto. Va bene, avanti, gode, riprenditela, io mi sono ascoltato già poc'anzi. Prima che sia andato, come sempre, non avverte, cazzo, gode. Aspetta un attimino, fate passaggi lunghi, è normale che mi allontano un attimo, no? Che stavo vedendo questo trasformatore che mi è arrivato. Ma vuoi un altro bidone che ha comprato, Cos'è bidone, cos'è bidone? È un auto costruito dalla CPE. Mamma mia. Bene. La CTA hai comprato un alimentatore da G, mi hai comprato un alimentatore per baracchino, te lo scrivo, te lo mando per posta, con il postino però, comprati un PS50 della Kenwood, hai capito? Comprati un PS50 della Kenwood, a volte dico più, sei più indennitante di chi ci dirà, in alimentatore che prima o poi vedrai che ti fanno... Tirano qualche segno brutto a te, niente, a te non valgono niente. Se tu vuoi usare l'HF, ma usarlo bene, tranquillo, sereno, comprati l'alimentatore su di linea, vedrai che non hai problemi. Anche perché ha un suo cavo dietro da 8 mm quadri, con tutte le protezioni, e attacchi una radio. Poi a fianco ci sono le due uscite, positivo e negativo, dove prendi l'alimentazione e attacchi anche l'altro radio. E quindi, ma non una, ma cosa che le 10 di radio, capito? Ma non è CTE, è C e B, CEP. No, già stai parlando diversamente. Quando tu parli della CEP stai parlando di alimentatore. Se parli della CTE stai parlando di un alimentatore per baracchino che non vale manco 5 lire. Dalla CEP è nata la Siria, capito? Perché sono alimentatori di alta professionalità, di laboratorio, alimentatori sperimentati, alimentatori che danno sicurezza, e quindi va bene così, se non accetto va bene. Certo. L'unica cosa, non c'ha il lettore della potenza di volt, perché è regolabile, c'è una levetta che prima la metti sui ampere o la metti sui volt, quindi a seconda della lettura. È realmente un po' avaro, nel senso che da più volte lo sto controllando col voltmetro e ne va di meno, ne segna di meno. Sì, ma tu per non sapere leggere e scrivere, punto, metti punto a sì, ai 14,8, quindi quasi 15 volt. Però voglio un attimino vedere se riesco a settargli, perché hai visto che ci sono quelle vitine di rettifica sulla lancetta. Sto un attimino rettificando la cosa. Quindi riprendete un attimino che sto facendo questa cosa. Io non c'è da rompere l'ago, eh. Prendi un cacciavettino proprio piccolo e stai attento a non spezzare l'ago, perché all'interno di quella vitina che sembra una trattata c'è una mollettina che lavora in percentuale con quello che dà l'alimentatore, quindi fai piano piano. Oh, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a chi è? Tu di Claudio Spalviero. Ho capito, amico di Claudio Spalviero. E chi è? Cano di Ottava. Chi è Gigi Vulca? ogni tanto io qua questi baracchinetti. Non è rimasto più niente. Oramai siamo la frutta qua. Abbiamo sbaracchiato tutto venduto abbiamo, servivano soldi a campare, Monti ce l'ha preso tutto. Puoi dire forte, quello lo puoi dire forte. Una cosa volevo chiedere a Antonio Grote, che ho visto che... Ascolta, tanto ho un problema c'ho io, ma a te come è uscito questo mirto? Aspetta, eccolo. Ciao G, mi hai sentito? Una bomba, perché è un po' leggerino, però bene, lo stanno apprezzando tutti, perché? Perché a me è andato male. È andato male, cioè? Io tutto bevuto. Così è. No, è uscito buono, però è quasi finito, sai, è iniziato una bottiglia, te l'ha presa Pierpaolo, un'altra bottiglia l'altro mio figlio, un paio di bottiglie ce le abbiamo già bevute, e passato Massimiliano ieri sera, vabbè Massimiliano beve poco, come si chiama, poi Costanzo, lo straniero e poi qualche altro amicaccio, e sono sparite già 3-4 bottiglie di mirto già finite. Non mi hai dato però. Tu non è bevi, non ci sei venuto stamattina, capito? Sono contento, ma la mamma l'ha fatta a parte, la mamma l'ha fatta in garage. È positivo. E niente, no, abbiamo già quasi già tutto bevuto, cavolo. Sì. Ti ho detto, scendere un paio di bottiglie tu, perché io non ne ho più, tanto. Lo so che non c'è problema. Guarda, ne devo regalare due e tutto il resto ce lo beviamo, non c'è problema. Che sto scherzando, già ce l'abbiamo bevute veramente 4 bottiglie, non scherzo, no, bevute, no, diciamo ci abbiamo bevuto 2 bottiglie, ma 2, uno mio figlio e un altro mio figlio te l'ha persa. Perché, allora ti stavo dicendo, per me è come taglio un po' leggerino, però visto che chi lo sta degustando mi sta dicendo che è ottimo, perché a parte che se tu vedi quello commerciale, la differenza è che quello che abbiamo fatto con te è proprio viola, bello, un bel colore, quello commerciale inizia a essere un rosso mattone, sembra quasi che ci abbiano messo coloranti. Tu l'hai visto come l'ho fatto io, tu l'hai visto, capito, e poi il segreto per farlo sentire quel gusto ancora più speciale, capito, quello cosa abbiamo fatto, cosa ho fatto, cosa ti ho fatto vedere, capito, che ho fatto. Tratta di oggi, un pretrattamento si chiama, pretrattamento. Positivo, no, io ogni anno mi è uscito sempre buono. No, il rimedio, se tu te lo senti leggerino, il rimedio c'è, te l'ho detto a tu. Prendo una bottiglia d'alcol e gli aggiungi un po' d'alcol. Niente, lo metti, però lo devi travasare tutto assieme e farlo nuovamente, hai capito? Se mischiarlo, gli aggiungi un po' d'alcol e l'aumenti di gradazione. Quello, il problema si risolve subito. Tratta di oggi. Sì, no, guarda, sarà un... considerando che abbiamo fatto il rapporto 2-3, sarà un... perché 2-2 usciva 95 gradi diviso 2, quindi sarebbe riuscito a 42 e qualcosa. Col taglio di un'altra bottiglia si divide per 3, quindi alla fine è intorno ai 33 gradi. Il mio va bene perché ci è rimasto un quarto, quanto era in più, e quello, io ho fatto 3 litri di sciroppato, 3 litri ce l'ho fatto, e più quel quarto che c'era in più, ti ricordi, quello, dai, gli ha dato già un altro aiutino, perché quello era alcol puro, e quel quarto era alcol senza diluire. No, basta che aumenti un po', che quindi tu hai fatto 2-3 oppure 3-3? No, 2 e 3, 2 di alcol e 3 di acqua. K di Roger, quello ho capito. E poi tu gli hai aggiunto anche un pochettino l'alcol, c'avevi cioè mezzo di alcol. No, quello vedi, c'è rimasto un pochettino, abbiamo fatto la soppressata, c'è rimasto un pochettino una bottiglia, che il boccione non ha, ho riempito due boccioni, è rimasto un pochettino, quasi un quarto non c'era, ma poco ci voleva, l'hai visto? Di Roger, mentre invece sto aspettando che stia asciugando della roba, l'ho messa, l'ho appesa e sta andando una meraviglia, Positivo, qua ha già asciugato bene, qua ne abbiamo fatto fuori già un coso a mezzogiorno, così tanto per non cambiare, un'altra cosa ce la butterò in mezzo alle lenticchie stanotte, capito? Adesso sto facendo un po' di preparazioni per stanotte, e un altro ce lo butto in mezzo alle lenticchie, insieme a un cotecchino ci metto anche a loro in mezzo, che sono più leggeri del cotecchino. Papà di Roger, sì, ti ripeto, due bottiglie devo regalare solamente, tutto il resto me lo bevo. Va bene così, dai. Va bene così, l'ha costato Costanzo e anche Costanzo ha portato l'alcol e niente, anche lui lo vuole. Anche lui, perché l'ha costato è ottimo. Ottimo perché poi, vedi, rimane già bello, già filtrato, già... Quel turchio va benissimo, capito? Fa un capolavoro quel turchio. Infatti me lo sono preso, guarda, ce l'ho qua. È uguale, uguale a quello che c'hai tu. Preciso. E secondo come vi faccio anche il vino, Sì, ti puoi fare mezzo litro di vino però con quel corpo, ma che cazzo, vino non conviene. E quando ci sta un gran foro d'uffa, un mese per fare 5 litri di vino ci vuole con quello lì. No, già, guarda che già ce ne sta, se lo togli gli acini, se è giusto per farla, così per provarla si può fare. Se la schiaccio con i piedi, quindi puzzolenti, mi. No, io l'ho fatta con i piedi e te lo dico, però non bisogna lavare i piedi perché sennò il vino non esce buono, quando ce l'hai belli, metti via così i piedi, allora il vino esce ottimo. Ma perché fermenta? Tanto poi te le devo regalare lo stesso quelle bottiglie. Fabri, vino ti serve? Ma non ne sto più bevendo, a te io sono diventato. Stavate con gli imbriaconi, Giulio, riprenditela un attimino che mi sto allontanando, sto finendo col lavoro. Ciao Gigi Vulcano, ben sentito, Io c'è il canale di Rimbriagonica, per carità. Bella male con Rimbriagoni. All'anno, dai. Io anch'io qualcosa l'ho bevuta, dico la verità, oggi non me lo nego, e poi sono andato a fare una commissione alle Punti. E c'è un amico di Buduzzo che c'è lì, che vende legna, devo lasciargli una commissione per un altro amico di Buduzzo. E niente, ho bevuto vino, ho trovato a mischiare, poi mi ha fatto questa e ho... Insomma, già stamattina già ho bevuto un po' e poi c'è stanotte. Oh, yeah, già la meglio uomo, Assura di imbriaghi. Quello Giulio tu sei? Assura di imbriaghi. Ciao Luigi. Ciao Fabi. Ciao Giulio, qui bollono tutti, qui bollono tutti, canale di imbriagoni. Qui siamo canali da alcuni tardi. Oh, grazie a tutti per aver dato Claudio la domanda, sul canale di vabbè. È meglio di imbriagoni comunque. E pure su canale di imbriaguglie, l'ho detto io. Appunto, è quello. È quello che ho voluto ricordare. Si mettono a fare quel show, parlano di orecchioni, come li vuoi chiamare? Ciao Cacco, ci fa Luigi non c'era, Luigi non c'era ieri sera, vai lui. Senti, ma no, io ieri sera ero, cos'ero ieri sera? Non è acceso ieri sera, mi pare, no, assolutamente. Ero qua e niente, ieri proprio non ho acceso nulla. Tu sei sempre preparativo, già lo credo. Tu hai sempre avuto con la roba italiana. Io vorrei sapere dove metti tutto questo ben di Dio, che ti cucini, cosa fai, ma non c'è un bel mangi. Ma non è che, attenzione, non è che sono solo perché ci sono miei figli e cose, però lo faccio perché, diciamo, però attenzione Giulio, non è che bevo, sto bevendo perché oggi siamo sotto festa e diciamo qualcosa l'ho bevuta, capito? ho ancora lo stomaco, il fisico me lo permette, capito? Ma non sono, non esagero io, Giulio, non esagero, però giorni di festa così qualcosa me la beffo, dico la verità, e stanotte qualche bicchiere di vino, ieri sera, di la verità, guarda, ieri sera io ho fatto quel mirto, e niente, l'ho messo, era già pronto, l'ho messo in frigo e coso, e l'ho assaggiato, e capitato l'occasione che è passato Costanzo, poi è venuto, come si chiama, è passato Massimiliano Bulldozze, ha detto io lo assaggiamo a vedere come è uscito, e abbiamo fatto un paio di giri a ciascuno, questo mirto, poi niente, se sono andati loro e sono arrivati amici di mio figlio, una cosa e l'altra, lì, io qui a prendere la bottiglia del mirto nuovamente, c'è un dolcino, una cosa, c'era, lì e c'è passata un'altra bottiglia di mirto. E non è poco, e vabbè, quando le cose piacciono al palato va sempre bene, come dicevano gli antichi, tutto è ripreso a bocca, non muori in bocca. Gori, come dici tu? Ecco lì, vabbè, fammi. Ecco la lì, guarda, che da domani me ne vado sul canale 15, perché gente poco seria, ecco, capito, gente poco seria. Quando ho detto su di io ancora non ho bevuto niente, e oggi non posso bere, che sono in servizio fra un po', quindi non posso bere. Ma avete la parte mia, vi raccomando, che se bevo io rimanete tutto al buio stanotte. Mamma mia! Comunque lui, tu fai bene, a bere poco fai bene, come sempre che fai, e lui lo bere sempre poco, già lo so che non bevi quasi niente, già lo so. Ocla, tu come la pensi? Ho capito, cosa hai detto? Allora, ma lui se non beve, perché se dice che rimaniamo al buio stanotte, se beve lui. E Luigi, quando se ne fa, beve poco, e va bene così, anzi, è meglio che sia così. Tu cosa raccomandi questi? No, non lo so io. Io so solo che domani devo lavorare, quindi non è che non posso approfittare neanche io, però se dormo io poi domani rimanete lasci tutti quanti. Perciò siamo, mi pare, tutti nella stessa minestra. Vabbè, non c'è problema. Io tanto sono fuori Sassari, quindi non posso né bere né niente. Sono ancora un po' mezzo influenzato, però se capita che c'è un bicchiere di vino buono, già me lo bevo sicuramente. Quella è una cura buona però per l'influenza, mio. Quando ero così piccolo, io non me ne intendo perché non bevo. Sono acqua nel rubinetto, cioè praticamente sei tu che mi fai il rubinetto e condizioni bene, perché se bevi anche tu a Dio, mi dai una rubinetta un ultimo frio, e io muoio di sette. Vabbè, lui. Io mi sto preparando, io mi sono offerto di fare tre cose stanotte, di preparare la pasta a forno, no, quattro cose, di preparare le lenticchie, di fare i gamberoni e il cinghiale che l'ho già preparato e dico la verità, non ho regalato un pezzo a mia nipote che ne avevo anche troppo, gli ho dato, ho detto fa una cosa, fatevi il sugo, fate quello che volete, ne ho fatto un pentolone grande, preparato, già tagliato, poi stanotte lo metto a cucinare come so fare io, devo cucinarmi il cinghiale, e la pasta a forno devo fare, che vado la preparo già subito, e i gamberoni ci metto un attimo, le faccio in teglia, e le lenticchie devo fare, adesso cucino io stanotte e via, faccio io, poi l'altro si aggiustano loro. E metti come andare, però perché il cinghiale l'ho già cotto, mio, è già pronto. Basta perdere, non ti preoccupare Claudie, io lo metto quando stanotte, lo metto un'oretta prima di iniziare che sappiamo che dovremo cenare, fare la cena, così ce l'abbiamo caldo e cosa, lo metto a fare più tardi quello lì, capito? Se no poi si raffredda. Ma c'è il cannino d'oro, no, io l'ho già fatto. e basta, ma già, già sono molto veloce, il cinghiale me l'ho già pronto, è già pronto, tagliato, pronto, lo devo solo poi mettere a cucinare, più tardi la pasta al forno la preparo, adesso faccio la besciamella, il sugo l'ho già fatto stamattina, e via, ho fatto anche il sugo, il ragù per la pasta al forno, faccio tutto io sono lo chef, capito, non sono cose del genere, che non cucina tu che sei più bravo di me. Mangio problemi. Te l'ho detto Gigi, ma in pensione il ristorante da Ottava è alla grande. Ristorante da Gigi. Eh sì, ma mi hanno già fregato, hanno fatto la valle del vulcano, un ristorante, pizzeria lì a, come si chiama, a Torralba, capito, per andare lì a, come si chiama, per Santa Lucia, hanno già fatto il ristorante, cioè pizzeria del vulcano a Sassari, l'avete, l'altro giorno ero lì scaricando acqua e c'era questa signora che mi guardava, vedi, perché c'era il camion, c'era scritto vulcano, si è avvicinata, era con questo furgoncino, ce la sai, c'è che noi ci abbiamo la pizzeria al vulcano, dove c'è Sassari, ci abbiamo la pizzeria al vulcano, noi dice ci ha fregato il nome, e io a lui, detto, ma c'è l'anno scorso, e detto, io esisto da prima dell'anno scorso. Sentivo, sono stato a prendere il caffè da un paio d'anni fa, ho detto ma insomma mi state fregando il nome, cavolo, il vulcano, questa signora lo stesso, c'era scritto nel furgone, nel fianco del furgone c'era scritto pizzeria il vulcano. Dunque, siccome tu ce l'hai prima di nuovo, questo rimanativo, non ti parlano i diritti d'autore, cerca di fare soldi. Sentivo, mi ha detto la signora, mi fa piacere se viene in pizzeria da noi e facciamo il figlio. O che le avevano messo questo nominativo così, gli hanno messo. Me l'ha detto dov'era, lo sai, no. Mi hanno lasciato anche voi i cosi da visita, poi gli tiri la visita. Sassari, però non mi ricordo che zona è. Non lo so nemmeno io. vabbè, dai. Vado là, ti lascio. Ci sentiamo più tardi, eventualmente. Saluto per il momento. E se non ci sentiamo prima, auguri a tutti. A te Luigi, a Claudio, a Fabrizio, a Gronzo se c'è ancora, e qualcuno che ci sarà all'ascolto, suppongo di sì. Vabbè dai, a più tardi eventualmente, ci sentiamo. Mi prendi pure Fabri. Ciao Giulio, dai, a più tardi se ci sentiamo, se no i prossimi. Ti auguro un buon fine d'anno e un buon inizio di nuovo anno e tutto quello che vuoi, Giulio. E niente, io adesso qua dai, chi c'è rimasto io, poi c'è Claudio, Vulcano mi sembra stava chiudendo, e il Grobe che è sempre assente. Avanti qua. Claudio ha salutato, tra doveva fare cosa, forse non era un po' distratto, dai. Claudio vi ha salutato poco fa che doveva fare cosa. E anch'io devo salutare perché tanto qua il supermercato sono le 5 e qualche cosetta, è già aperto e già ascoltando le chiacchiere mie. Dai, vi faccio tutti quanti dai gli auguri di Capodanno, se non ci sentiamo più tardi, se no, ma già accenderò più tardi, dai, se c'è qualcuno, ma non penso perché più tardi sto pensando tutte altre cose io. Comunque dai, auguroni Fabrizio, Antonio Grotte, Giulio Dollaro e chi c'è in ascolto, dai, io vi faccio cordiali auguroni di buon felice anno nuovo. Riprendi tu Giulio e poi per finale che io poi non riprendo più. Ok, avevo già salutato lui, salutoni di nuovo comunque a tutti, auguri un buon anno per un prossimo 2012, speriamo come si deve, non con il sistema Monti soprattutto. Vabbè, salutoni a tutti, io chiudo, dai, Grondo se ci si riprendi. Fai come Giulio, vi ringrazio, tutto è cambiato al 100, a voi e alle vostre famiglie assolutamente. Gigi, oggi brinderò alla tua salute, un paio di bottiglie sicuramente ci partono. Riprendi Fukushima. E tu dove sei? No, saluto a tutti comunque, a tutti gli ascoltoni, a tutti quelli che stanno facendo quel Rex o quel Rex. E buon anno da parte fate stanotte? Speriamo di no. Ascolta, ma vento c'è ancora? No, se sono sul divano, te l'ho detto, quelli quattro, sul divano. Però c'è la tua famiglia dove? Tutti riuniti dal suocero? La notte della sorella di mia moglie vanno loro, io lavoro, c'è un cofano quasi pieno di roba e lo organizzo giù, io dai. Tocca sempre a me organizzarle queste cose, quindi organizzo giù questo cavolo di cenone. Se tutto va bene, se non ci sono problemi, se ci sono problemi, rimarrà il tavolo apparecchiato e basta. Chi è rimasto sul canale? A cosa bene? Siamo noi due, io e un pederasta. Quanti il pederasta? Già mi ha ragione. Gada, aiuto, cambia frequenza, dai. Dove vado? Là? Veloce, però mi devi dare l'abbrivio perché non mi ricordo, aspetta un attimino. Può fare una chiamata? Aspetta, devo muovere, aspetta. Dimmi solamente le ultime tre cifre. Sì. Fabrizio, attenzione Fabrizio. Grobe, agite le grobe. Papà, dimmi gli ultimi tre numeri. 600. Non ho capito di cosa stai parlando, ma chi? Papà di Rosero, quella nuova che ti sei presa. Quella nuova che ti sei presa. Quindi ricordati dove eravamo. Che va bene anche quella lì, è sempre quella vecchia. E certo, 600. Esatto, però ricordati le prime tre cifre. Io sto facendo chiamata, eh. Mi ascolti? State parlando 1 a 34 e 1 a 33. Tu mettiti mi accorgo che dovete parlare. Diglielo, però sta sbagliando lui, no? Stai sbagliando tu. Stai sbagliando tu. Sarà stato detto 34, non più 33, tu stai continuando a parlare a 33, non è fermo a 34. Questa è la verità, non è che qualcuno che ti controlla. Attenzione, Brecco! Scusate! Gira, la bocca le ha la macchina e pica sopra un monte e poi da rincuro, come te ne gira adesso? il nome suo è minore minore, poi ce l'intendo su Martesi. Va bene, che sta cosa ha comprato e ancora non ha vicino a sola, non è vicino. Tutto il caso che l'annato, copre di questa cosa, luce di sapera, l'annato è sempre tranquillo, invece esso no, qui si ha fatto sempre le conca sua e sempre cari. Santiago 5, Radio 3, a Guglia, una bella radio. Si comprende perfetta, perfetta, perfetta, pulita, pulita. Ah, ma c'è la portante. Presidente, non mi fa ascoltare. Già me la preparo anch'io adesso, Avanti! Vabbè, dai, vedi di andarti a farti fottere prima dell'anno e dopo l'anno. Tu, Titi. Scusa, ma non ti copio perché stanno mettendo la portante. Aspetta un attimo. Fottiti! Sempre l'ascolto, rimango. Tanto non fa. C'è qualcuno che si sta divertendo. Vabbè, non fa niente. Se la può prendere in culo. Ok. No, ho sbagliato. Non fa perché c'è questo coglione. Aspetta. Sì? Ah, coglione. Ciao. Chi è? Indovino, indovine. Ciao, doppio room. Ui. E allora, come so va? Io stavo parlando con Buduzzo, so che c'è un coglione che rimarrà coglione quest'anno, il prossimo anno e finché campa mettendo portante. E diga, e niente di particolare. Coglione. beh, c'è sempre chi si divorzia. Ma poi dire una cosa, i positivi sono negativi, guarda, la 2-1, 2-3. Allora, i picchi sono positivi. 8, radio 5, ma sono personale, che c'è solo tu. La radio è veramente... Io ho visto che c'è. Proprio ti arriva. È una portata molto alta. Sì. Niente, vabbè. Mi commosso a farsi foto e sicuramente le piace. Lo passo o mi passa? No, oh, ti passa. Mi passa, brutto bastardo. Ma che gusto ci può cazzare. Ah, non ti cazzare ancora, tutti i dici. No, non mi cazzo, poi il bello che... Tengo perché arrivo la portata 9 e 5, sì, e se vale giusto più un coglione che arriva più forte di me. Sì, 9.40 qua arrivo, Ah, 9.40, vabbè, non c'è problema. Ciao Jean-Marie, mi sentite anche a te, cosa vuoi fare, dai. Ma niente, già, ti volevo dire, beh, poi alla fine. Hai capito qual è il... So. No, Antonio, ho controllato tutti i cavi, sono tutti a posto. Non capire cosa sia. Come i dati negativi vanno modulo, ma non so che cosa sia. Non riesco a capirlo. Ma sinceramente io te li vedo qua positivi, controllati l'antenna alla fine. Vabbè. Ma non ti preoccupare, la tua radio è sempre bella, ce l'hai avuta sempre bella. E con questo tempo non ce l'ho potuto controllare. Gianmarie. Quello sì, Gianmarie. Ok, dimmi già. Tu io quanto ti arrivo a te? No, non gli arrivi, tu sei 9. Capito. No, per farmi 2. Ehi, cosa, Antonello, non faccio. Noi siamo vicini, passi tranquillo. Ma non so cosa... Che gusto ci trovo. Antonio, io ho controllato il giorno 1. Giornata. Su

Italia, buonasera, circolari. Buonasera, buonasera a tutti, non so chi c'è, arriva Cesare adesso, quindi ho sentito e sono entrato a far salutare tutti quanti da questa parte. Antone, ma cos'è che stai usando? Il 68 adesso, alternata si sente ancora, vero? Sì, alternata. Adesso invece? Vieni avanti. Un V3. Ma non devi modulare. Ah? Metti solo portante. No, adesso va bene. C'è un alimentatore della GBC 50R, Dio mio, non serve un po'. Quando premo incomincia a vibrare e fa un casino nero. Ma un degli apparecchi ti sei acquistato in questi giorni? Mi sono acquistato. Ti sto sentendo provando di uno dietro l'altro, cosa stai facendo? Collezione? No, il Galaxy ce l'ho, poi c'è l'Ana 44, il mio primo apparato, che c'ha 18 anni, c'è un rimacro, l'ho portato a casa, e il 68 ce l'avrò da quest'estate, ce l'aveva comprato mio fratello, poi non l'ho usato più. No, lo sento gli stessi. Non ho l'impressione, non perché sto entrando poco, tu sai che ogni tanto io ancora non ti sentivo, poi ti ho sentito, prova qui, prova là, e stavo dove avevo fatto nuovi acquisti per Natale, poi ti ho sentito che stavi anche pompando, quindi devo aver fatto nuovi acquisti, qualche HF o qualcosa del genere. No, assolutamente. No, secondo me mi si era bruciato un alimentatore vecchio che avevo. E lo stesso mio fratello si era comprato questo alimentatore a 50R della GBC per caricarsi le batterie dell'aereo, di un modulino di aereo. E l'ho fatto prestare. E vedi, adesso come lo collego si è alternata, vero? Sì, sì. E non serve a un chip, va, glielo restituisco immediatamente. Avanti, Paolo Torres. Ehi, capo, buonasera, buonasera. Comunque, Antonello, col Galas la modulazione è migliore. Internato non se ne sente. Ma da parte mia, negativo. Magari essendo più vicino a Sassari è diverso. No, ma adesso non le hai, eh? Aspetta. Guarda, adesso è collegato il Galaxy. E non le hai? Dimmi, ho copiato. Ho detto, mi ascolti a fare così? Sì, sei molto più basso, Santiago 5, Radio 5. Ma devo uscire così perché c'è il troppo stazionario. Ah, ecco, guarda. Adesso ho attaccato il Galaxy insieme a quell'alimentatore, lì qui si sente l'alternata. Sì. Era l'alimentatore allora, dai. Oh Gianni, com'è che ti è successo? No, le quattro mani mi sono salite di brutto. Le stazionali a due, Però per quanto sto vento qui dovresti salire su e controllare, vabbè, in questi giorni. Probabilmente il vento ti ha. O ti è entrato un po' d'acqua, una volta l'ha fatto con me. Magari la bobina, qualcosa. Sta controllando, c'è sulla mantova. Ciao mamma, ben sentito. Buonasera a tutti e buon anno. Contraccambiati da questa parte. Prego. Avanti. Buonasera a tutti, buon anno, dai. Natalino la famo del barra mobile. Del rientro a domo. Ciao Natalino, ben sentito, e tanti auguri anche per te, che è stato che oggi c'è una roba bella larga e io ho già perso, ho perso i punti. Riprendi Giulio. Sì. C'è Gio Maria, chi è che c'era? Io, guarda un po'. Tu sì, ma mi sembra che avevo sentito anche Gio Maria poco fa. No, ma Gio Maria se n'è andato però. Vedi, distratto, sono sempre distratto, come al solito. Vabbè, dai, ti dicevo Gianni, ma dopo questo momento ti ha dato problemi? Stamattina mi stava. Adesso per dire 1,5, si è diminuito. Se però attacco va un bel in alto. Ma non è che come l'antenna viene sbattuta dal vento, ti aumenta stavo scendendo. Sì, è vero, un po' scendo, 1,3, 1,5. Qualche falso contatto c'è, quello fa un po' con i dipoli, perché sono non ben tesi al 2, quindi però vedi un pochettino, è normale. L'antenna verticale non è normale. Sicuramente c'hai qualche cosa, ma l'ha fatta a me una volta la Ringo. Devi avere qualche problemino, devi qualcosa che ti sta andando, che non fa contatto bene, a me la carica della Ringo me l'aveva fatto questo difetto. E col vento, quando c'era bel tempo andava bene, poi iniziava il vento, ci arrivano così le scarpe orarie. Cazzo già, ma come hai fatto il tuo mobiletto? Si dice che la Maria, Controlla l'ispezione che ce n'è qualcuno messo male. Anche il tempo, vedrai l'acqua, come l'ha fatto anche a me. Cazzo, ma come ha fatto il mobiletto nuovo? Non ho avuto più fisica. L'ispezione deve controllare che non ci sia qualcuno messo male. Mantella. No. C'è niente, no, era all'interno, lui c'ha problemi, già l'ho già detto. Gianni! Come cavare il portolo, prendi direttamente il cavo dell'antenna e collega al baracchino e vediamo il segnale, che già lo conosciamo. E non è diretta, mi metto la diretta con l'antenna, cazzo, ma pure gli strumenti, trovettine, entrate, uscite, tutto diretto, vabbè, io qua lo strumento c'è la radio, quindi non è che cambia molto, tutto diretto per parlare, così ti accorgi se l'antenna o se qualcosa lì all'interno. Sono io, sono. Io sono, Alberto. Sì, vabbè, allora. Allora, lì, è entrato solo. Sto aspettando che mi dico dal bagno, così mi metto, mi sistemo, mi preparo e siamo a Bendi. E stiamo andando, anche se ne ha poca voglia lì, ma proprio 0-0-0 oggi, di uscire, di andare, di muovermi. Avrei preferito starmene a casa. Minchia, ma devi lavorare, devi, così che è un casino, capito? No, sono io Fabrizio, ci tocca lavorare, lui di notte e io domani, quando sta rientrando lui non sto uscendo, avrei preferito fare la notte Fabrizio, alzare la mattina che sto a andare a lavoro, perché intanto c'è così lungo che sono una mezza cartuccia la mano, io ho fatto la notte di Natale, ho fatto la notte, i bambini sono disavvertiti, mangiato, bevuto, la mattina e 6:15 ero io in piedi, ero una larva tutto il giorno. Ma non fai, Fabri? E ho detto, io mi prostituisco. Hai a parte di bufumatori, che lavoro fai? Guarda, se tu adesso stai modulando, un po' è anche merito mio. Guarda. Monti travaglie, cosa fai? Monti radio. No, ti sto guardando, ci vedi? Non puoi occupare il dorso, no, che. Ma vedi però un po', al buio ci vedi? Alla Ruzzi, Lui travaglia all'Ener. Ecco, se noi produciamo quello chiamato corrente, la produciamo lui. Compreso e con un pannello solare non fai? No, a me pannelli solari anche se ne abbiamo 30 ettari ci rompo i coglioni perché non è il mio futuro. Questa era bella, poi chiudo a guardare le tue tasche, non si conforma. Gianni, ehi, guarda qua a vedere adesso come va. Così diretto sono 5 volte il tuo segnale, quindi l'antenna non c'ha niente, è tutti quei spezzoni che c'è all'interno. Scappa. Antonello, a te come va? Adesso sei tornato come prima, la tua bella modulazione. Questo qui è diretto, l'antenna è diretta. E allora c'è qualche cosa, questi cacchi di spezzoni, bisogna controllare. Te le rifai una a una, adesso sei tu direttamente, a voglia. Adesso già cambia. Meglio così già, non sei contento, che non devi salire sul petto. Ehi, ho detto, così sono anche con il voto dell'apparecchio, basta. Sinceramente non ho avuto neanche l'idea di prenderli, è la verità. ne sono due scatole. Cioè, da solo due giorni senza vederli. Kappa, dai. Si è andato. Dopo si mangia alla grande e si beve alla grande. Tutto in famiglia, dai, alla fine. Cosa vuoi fare, dai. No, è giusto così. Aspettate, per una cartina e faccio una sigaretta. No, ne fuma, Dio, ne fuma. Vieni che ti do una bottiglia, mi. Cazzo fuma. E cosa è fuma? Faccio che fumare, no, che. Già le butto, dai. Già ho smesso una... Ci mettiamo di freddo e smettiamo di nuovo. Adesso tu fai e li fa. Adesso vado in bagno. Ehi, ci siamo, tu lo vedi? È una che sono attivo in bianco che sto facendo due cose. Ascolta, guarda qua, differenza le trovi con quest'altro apparato? Non ci stiamo facendo caso, però ho toccato lui, sono spostato, comunque bene. Bene, ma accomodazione, questo era la 44, 18 anni di vita, anzi forse 19 quest'anno, dai. Che mi sto consigliando? MD più 4 sempre, lo trasferisco sia nel 44 o nel 68 nel Galaxy. Una bomba, va benissimo. È sempre originale. Aspetta, è sempre originale. Vuoi vedere se con questo si è incantellata? Guarda un po'. Sì, è ascoltabile. Vicino che da 15 watt prima la portante ha l'assorbimento, il trasformatore fa un casino nero. Sì, l'ho visto. Va bene, non ce la fa. Perché 5 ampere non va, sicuramente perché non bastano 5 ampere. 5 ampere giusto per un baracchio. Allora, non so se lo conosci questa, la 1230 della Winner, non so se da modo 12 o 20 watt massimo, non di più, è piccolino nero, sicuramente avrà bisogno almeno di 8-10 watt. Sì, sono tutti, però 5 watt se non ce la fa. E allora pascescia, con questo va bene, dai, la modulazione già è abbastanza comprensibile, non è compresa. No, va benissimo. Perfetto, d'accordissimo. Avanti, bombolo. E poi è scomparso. Il doppio rumore lo stesso, cos'è che sta manovrando? Ah, è entrato, sì. No, le stavo dicendo che non c'è sicuramente. Deve prendere un'altra bottiglia, ho detto, per festeggiare. Se abbiamo chiamato è il comparso. Doppio rumore. Doppio riso io. Ehi, guarda che gli è entrato Chirigato, avanti per lui. Chirigato, avanti. Riprendo io, aspetta. Faccio lì, ecco, riprendo io, niente, faccio in QRX che inizio a prepararmi, che devo fare due cose, e se rimango alla radio, sono tutta la sera, c'è attaccata a questo microfono, guarda. Vabbè, dai, vi faccio gli auguroni, al limite, se ci siete ancora, magari dopo entro per salutarvi, se no riferitevi salutati, a voi le vostre famiglie. A te, Bombo, a te, Malacuda, Gianni, se ne ascolti, tutti gli altri che sono in ascolto, ci sentiamo dopo magari. A te, dai, e tutti in famiglia, dai, pure i Fabri, dai, ci ascoltiamo. Ehi, auguroni, però secondo me sei un po' troppo amplificato, Io? Da parte mia quindi ascolto un bel amplificato, anche troppo. Perché io non mi abbasso la voce, ma io quando l'alto mi senti troppo amplificato, capito? Si sente anche un rumore di sottofondo, sembra una specie di ventola, tu? Un piccolo disturbo, cosa c'è? Qualche alimentatore raffreddato? No, adesso non lo senti più, avevo un'altra radio accesa. Ecco, ma adesso già vai bene. Stavo ascoltando qualche cos'altro, che ho qualche altra radio accesa e sentivi magari qualche ronzio, là. Sì, adesso va bene. un po' tutti e si è arreso, strano, chissà chi è. Attenzione Nicola Bordanza, attenzione stasera, eh. Certo che ne frega più di tanto. Papà, se non vede stasera, eh. Stasera vede. Avanti, doppio russi. Avanti, fischio. Frusciato la morsa. No, è Buduzò, avanti Buduzò. Ah, oggi è un casino, andiamo bene. Mi conviene oggi, no? Non conviene. Perché dico no. Sei sicuro di sapere chi sia? Non preoccupare tu. Ho quel segnale lì, sei proprio sicuro che sai benissimo chi è questo? Dove lo so. Ah, il segnale è sempre lo stesso? Certo. Ma questo qua è un tipo che modula con noi, oppure sta... No, non l'ho mai sentito. Lo so, ma lo scoprirò. E cosa scopri? Non ne vale manco la pena. Se lo scopro mi ne butto la porta. Di sua! Capito, mia? Perché lo sai cos'è? Vedete, prima intanto attacca il lineare, perché si vede che il segnale aumenta e scende. Attenzione che ce l'ho anche io, ti faccio catachimmi, c'ho catachie, un roppo di coglione, te lo sto già avvisando. Ma non lo fa più. Senti? A voglia che ti sento, le ho detto che te l'hai minacciato, non la metti più la portante. Scappa, dai, oiaiai, madonna santa, pagando. A mezzanotte, gnagno. Il momento, ne comintende. Vabbè, piano piano. Una, due, tre, quattro, grazie io, dai. Grazie io, arriva il nuovo anno. Speriamo che, dai, le cose cambino, in meglio. Cazzo cambiano, che sono già fatto di mare, so. Che cambiano? Lo so, sai, perché era malattia, giustamente. Mi avere dei buoni propositi, anche se poi alla fine si vede un po' com'è la situazione, non sono così cieco, però cerchi di avere un po' di strada. E capa, sono partiti male già, scherzo cambia, andrà peggio ma ciambano ciambano. E allora vuol dire che sarà il nuovo anno, useremo per prendere a calci in culo chi se lo merita, per farci rispettare, cosa vuoi fare altro? Poi per carità, guarda, hanno aumentato la benzina, hanno aumentato sul gasolio, e come fai ad andare avanti? E anche il gas a quanto pare, il gas e luce, diciamo tutti tragedie alimentari e le cose primarie li hanno tutti aumentati, tu dimmi tu, e poi si lamenta perché la gente non spende più. E cappa, hanno aumentato tutto, santo che l'ha creato, gas. Proprio gas, esatto, il santo che l'ha creato, è uno piccione in conca che gli vale. Guarda, uno piccione crevia, santo che l'ha fatto questa messa, gas. E a chi è? Con che cazzo SFD tutto caiga e alla fine non se ne salva neanche uno, sono tutti bravi a parlare ma nei fatti mi sa che ne hanno poco buio, allora già stanno bene, non ti preoccupare che non fanno pensare né a te né a me né a nessun altro. Dovremo voi ci crema Sammy, ehi, prima o poi a Sammy del tuo cazzo. Ascolta, domani non lavori o giustamente sei a riposo, sì. A dove? Non lavoro. Avanti doppio. Quella mi segnala adesso, guarda come va, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce l'hai per i maiali adesso. Ora va bene? Perfetto, sei tornato come prima, 9 più 15 c'ho qua. Con picchi abbastanza positivi, la radio è la verità da parte mia, limpida limpida. Ok, aspetta, era lo spettone, andiamo. E qual era? Uno più, ma quanti spettoni hai? Sono tre stazioni nel mobiletto, sono tre stazioni, ma ecco, ma ecco. sì, ragazzi. Sentito la doppia room, ha migliorato la parte tua e il suo segnale? Bravo! Grazie. Che è entrato doppio room, ha dato un controllo, sei anche, si è migliorato la parte tua lo stesso, il suo segnale, da me ha migliorato tantissimo. Non mi interessa, no, continua tu, dai, vado a prendere una cartazza, ciao. Eia, bevi anche la mia salute, fai la cortesia. E beh, portante, non vai? Anzi no, portanti, dai giù. E un po' di più di statuale ci sono, ma vabbè, va. Così dovrebbe essere di più. Statuale ci sono, un po' di più, E quanto ne hai? Guarda, se spengo, 1,5, là. Ah, ha tirato 1,5. Questa cioè sono alto, non c'è poco da fare. Ma è roba sicuramente in antenna, si è bagnata l'antenna, sicuramente. Sì, alla fine sì, perché si è controllato tutto l'impianto e giustamente è migliorato tantissimo la verità. E non può, questo vi dico, quando sei disinserito, sei 9-5, prima facevi Santiago 7, Santiago 6, 7, Radio 5. Proprio comprato? Sì, ho comprato 4 scatole di Mephisto. Ti hai fatto bene. Oh, un attimino che preparo la roba e ci sentiamo dopo per i saluti, dai. Pagappa, dai, ma a casa sei andati? Sì, vado giù a Platamona. Ero stasera lì per preparare, adesso sono risalito perché devo prendere la roba da mangiare e poi riscendo subito. De Gaffa, porta molto vino, che il vino è sano e fa andare bene, capito? Già in frigo, quello è già in frigo, non deve mancare. Dai, ci sentiamo dopo. Yeah, ok, dai, vai, vai, dove ti dà il vento? C'è qualcuno qua? È esercitato, sì. Tutti della vita champagne. Ecco, ciao Giovanni, buon anno, Grazie Natalia, altrettanto a te famiglia, E beh, lo sfumato, brizzato hai. Ma lo dico di sì. Hai fatto bene, hai fatto bene. Speriamo che sia un anno migliore quest'anno. Speriamo, è che mi tocca almeno il lavoro, Se si blocca gli è una cosa buona per tutti, se no via, per carità. Bene, bene. Ma a casa te l'hai fatta, sì? Sì, come a voglia sono qua. Ah? Anch'io mi sento male, no, non ci sono andato. Devo andare a Ui, a Gerone, ma no, mi sento bene, dici che sono rimasto a casa. Hai fatto meglio, Maria. Anche io mi sono rimasto qua a casa. Mi sono rimasto. Qui sto usando quello grigio, amico. Bene, andala. Già lo credo, già. E il microfono cosa stai usando? Il suo sto usando. Si sente lo sparo che dà, bang! Ehi, aspetta, l'ho avuto con il microfono, e so com'è, ma è troppo fracassoso, blon, ogni volta che abbassi la portata, blon. Guarda, così, fracassola. Adesso è di meno, adesso va più bene, ma come era prima, capo ogni rumore che fatti? Allora chi durò un bueno bisogna trattare. Ehi. Hai visto poi andendi? Ah, questa è una bombetta, Sto andando a Massino, sto andando anche. Aspetta un attimo. Un tesoro racconto. Grazie altrettanto, Non l'ho riconosciuto chi era, Non l'ho riconosciuto, ho ricambiato tutto, dai. Speriamo che sia un anno buono per tutti. Forse ci siamo sovramodulati. Guarda così come va. Ah, va bene, Natà, va benissimo. L'apparecchio va bene. E anche il microfono, capito? L'apparecchio va benissimo. Via, ti ha salutato una persona, aspetta te lo faccio sentire. Ho detto grazie, ho ricambiato, poc'anzi ti avevo sentito già. E chi è Natali? Non sono riuscito a riconoscerlo. Illuminami. Adriano, però lui a casa sua sta parlando col computer, forse non l'ha riconosciuto per quello, capito? E lui ha chiamato tramite il computer, mi parla Adriano. Grazie Adria, adesso ti ho riconosciuto, è bene pure che siccome adesso stiamo perdendo già le cose di modulazione, tra poco spesso stai entrando tu, ma anch'io però, anch'io sono entrato poco, però tu forse sei di più di me, ti ho riconosciuto, a uno ha ricambiato tutto Adria. mi ha fatto veramente piacere che ti senti troppo tanto, vai. Buon proseguimento, Adriano. Vabbè, ok, sentito la Adriano. Vabbè, là, salutone, tanto non c'è nessuno, Giovanni. Pensavo ci fosse qualcuno in più, invece non c'è nessuno. Oh, no, non manco un'anima, no. Tutti sono sfriolandosi adesso, grazie, già. Non come noi tutti casalinghi, per carità. Oh, io dovevo andare, però siccome era già pagato, allora ci ho mandato a mia figlia con mia moglie lì e mio figlio e gli altri figli, capito? Sicché io sono rimasto a casa e siccome non mi sento bene per non aggravarmi, allora mi sono rimasto a casa, capito? Già sto bene ugualmente. Vuol dire che io mangerò domani in famiglia. Infatti, tu non mi dici, non è che si intendiamo, allora se mi ci guarisci in lungo. E se mando il suo canale 2 su, a fare una missione, stasera, e la cosa può durare subito, perché la moglie che è tutta influenzata, non se la sentiva. Vabbè, là, ti saluto, alle prossime, Gianmarì. Ok, d'accordo a te. Buon proseguimento allora a te in famiglia e grazie per il ricambiato tutto per gli auguri. Ci sentiamo se Dio vuole, magari oggi, magari più tardi. Ciao Natà, buonanotte. Buonanotte anche a te, dai. Ciao, ci sentiamo.